immobile mi fa pensare al mio passato. Avvolto in tante cose inutili, io non credevo che tu esistessi. Resta sci dal portone e all'improvviso mi dai vigore. Certo non sarebbe male mollare tutto. Chiudi lo sportello e mi sento in paradiso, il freddo se n'è andato. Vorrei mollare il volante, saltarti addosso, te son fatto. Il mondo fuori dal parabrezza può anche crollare, giuro non mi importa. Certo non sarebbe male scappar da tutti. Mi basta un po' di mare per nuotare, mi basta la chitarra da suonare, mi basta il tuo sorriso per sognare e tutto questo cuore per poterti amare. Mi basta il cielo da osservare, mi basta la tua bocca da sfiorare, mi basta la tua pelle da baciare e tutto questo tempo per ricominciare. Che già comincio a stare male. Odio maledettamente il momento in cui ti devo salutare. Abbandoniamo tutto il mondo al suo destino, ce ne sbattiamo. Tanto tutto il resto può restare ad aspettare. Basta un po' di mare per nuotare, mi basta la chitarra da suonare, mi basta il tuo sorriso per sognare e tutto questo cuore per poterti amare. Mi basta il cielo da osservare, mi basta la tua bocca da sfiorare, mi basta la tua pelle da baciare. Tutto questo tempo per me.